Allora, Libera Informatica, siamo qui con Marco Masucci, Libera Informatica. Sì. Beh, spiegaci il progetto. Allora, il progetto è questo. Noi siamo un'associazione di promozione sociale che si occupa comunque di promuovere e diffondere il messaggio del software libero, e quindi della libera circolazione delle idee, di software come GNU Linux, di software diffuso gratuitamente e a sorgenti aperti, quindi liberamente studiabile nella sua costituzione da chiunque. E per farlo noi proponiamo corsi di informatizzazione, ma anche assistenza tecnica o installazioni di Linux su computer di privati e collaborazioni con privati e pubblici. C'è anche il progetto di fare dei corsi, cioè in realtà come quello che stiamo facendo noi, che sto frequentando io. Sì, giusto? Sì, intanto dunque noi siamo costituiti da relativamente poco. Intanto abbiamo fatto un primo corso che è andato molto bene, è stato un corso di alfabetizzazione informatica, quindi le basi, tutto esclusivamente fatto con software libero, con delle macchine che erano abbastanza obsolete, però funzionanti benissimo, perché tra l'altro questo è un altro dei nostri messaggi, è quello relativo al trashware, ovvero appunto la pratica di riutilizzare computer ritenuti troppo vecchi per del software pachidermico come per esempio Microsoft Windows o altri, ma computer che comunque si prestano abbastanza bene per Linux o comunque per fare delle operazioni di tutti i giorni come andare su internet, usare le mail, e che comunque si sono prestati benissimo per questo corso. Si parla di macchine anche di 10 anni fa, mentre invece, come sai, solitamente il ricambio di computer avviene ogni 2 anni. Quindi c'è una sorta di schizofrenica rincorsa all'ultimo modello, anche inutile, perché poi alla fine solitamente appunto si compra l'ultimo modello per usarne una percentuale sempre minore delle sue funzionalità. C'è un sito internet? Sì, abbiamo un sito internet che si chiama www.librainformatica.it, quindi è abbastanza facile anche da ricordare. Va bene, progetti per settembre, quindi riavvio? Allora, progetti per settembre. A settembre partiremo con altri corsi, probabilmente faremo un altro corso di alfabetizzazione informatica, dovremmo fare qualcosa presso la struttura di Vie Nuove, dove lavoro io. Esattamente, ma anche in altri posti, e pensavamo comunque di diciamo così ampliare il ventaglio dei corsi e quindi oltre a un corso di alfabetizzazione anche dei corsi specifici su metodi di scrittura veloce, open office, amministrazione, corsi specifici su varie cose. Va bene. Nel frattempo comunque continuerà anche l'attività di appunto installazione, assistenza e chiunque voglia portarci il proprio vecchio computer o comunque o vuole portarci proprio un nuovo computer o chiedere a noi informazioni per comprare un computer senza Windows, quindi risparmiare quei 100-200 euro, noi saremo sempre lì a disposizione. Per contattarci le informazioni sono sul sito. Va bene, quindi che viva sempre il software libero. Sì. Sì, sì, sì, è che comunque il software, lo ricordo, è nato libero, non è una cosa successiva e deve ritornare ad esserlo, insomma, così come le informazioni devono essere libere, quello che si può poi vendere è l'assistenza, così come io pago un architetto per costruirmi una casa, ma non pago le informazioni sulle tecniche architettoniche o sulla storia dell'architettura, quelle sono reperibili in qualsiasi biblioteca, magari non proprio in qualsiasi, ma sono reperibili gratuitamente. Il bene dell'intelletto dovrebbe essere disponibile a tutti. Va bene, grazie.